Peter può fare dei controlli a casa sua e l'anziana casca nella trappola. Mi è sembrato una che il fitto tecnico comincia a entrare ed uscire per le stanze della casa fino a chiederle dove fosse la cassaforte. Quando mi ha chiesto la cassaforte mi sono resa conto che non sto per controllare gas. Ora comincia a urlare, arriva a spintonare l'uomo che scappa dall'abitazione. Mariangela telefona alla figlia e sul luogo in pochi minuti arrivano. Chi è? Va bene, sta lì. Io sto sputando veleno presso i computer. Per carità, mi ha detto chi li ha inventati. Marco, non ho capito perché hai parlato metà passaggio, dai. Se puoi ripetere per cortesia. Sì, ho detto sto sputando veleno presso i computer, ma l'hai detto chi li ha inventati. E perché cosa ti è successo? No, così c'è l'applicazione, c'ho il programma, certe cose che devono fare non le fanno, poi si impallano, poi li rifanno, poi si impallano di nuovo. Diciamo che è legato a Android anche, non c'entra Windows. Per carità, guarda, devo uscire, invece non ho fatto niente, sono tutto il pomeriggio appresso le stesse fette. Ho capito, purtroppo è un casotto così. E poi diciamo che quel telefono Android ha preso qualche colpo di troppo, no? Magari non è più perfetto, quindi ogni tanto qualche file è come corrotto e poi li vado a leggere magari al computer. Va a leggere il file corrotto, ci impalla pure Ghissu. Mamma mia, mamma di turchi. Ho capito, cosa vorrebbe fare? Non so se me l'ho vista, perché questo. Gli aggiornamenti ho resettarlo il telefono. Eia, però chissà perché, sto pensando alla scheda, Natalì. La scheda micro SD, perché alle volte, non lo so, vado a salvare qualcosa e lì dice scheda non disponibile. E che non sia mezza corrotta la scheda, sai, in 4 anni e mezzo di utilizzo, sai, scrivi, sovrascrivi, cancelli, sposti, fai. A parte quando ho tolto il cassettino della scheda della micro SD c'era una cosa di polvere, una bella lanetta di polvere, micropolvere che riesce a passare. E magari quello anche interferiva con i contatti, anzi sicuramente. E prova a cambiargliela la scheda SD. Marcolino! Luca, ho capito! Che non fa nasconderti niente a te. Ma spiega alzo il volume, Luca, sennò non ti intendo. Dimmi. Non fa nasconderti nulla, dai, fate, ciao ciao. Vabbè. Già è riconoscibile la vocina, dai. E anch'io se vado a farla si riconosce che sono io. Cappa. Comunque Natalino, giusto, io sto facendo la stessa cosa, ho messo una scheda nuova, poco usata, che era nella tipo GoPro dei poveri, la sto formattando bene, provo a inserire. No, non solo. Nel frattempo ho salvato i dati dall'originale, che stranamente me li ha salvati, li ho salvati su hard disk. Adesso metto i dati salvati, così sembra la stessa scheda. Li sto rimettendo su questa scheda nuova formattata, capito? E vedo se funziona. E poi vado a esclusione, le provo prima l'uno, poi l'altra e vedo cosa è cambiato. Siamo che gli altri della polizia possono arrivare a quella. E tu i temi contasa. Ma io sto aspettando un amico che gli devo saldare un potenziometro a un joystick, mi sembra, che mi ha detto. Doveva venire e non si è visto. Ah, un potenziometro usa questo amico. Digli che potenziometri non si possono usare, che sono illegali. Lo so che sono illegali, ma questi li usano lo stesso. E mi auguro che possa che si quella volta che si potenziometro uguale potenza, va bene, non fa niente, prendiamo atto. Tutti sono questi qui nella tramontata. Va bene, vedo che l'angola 27 un pochino così, non c'è molto movimento, dai. E vabbè, ognuno c'ha l'affare, d'altronde lo sai qua com'è, no? né quando non è quello il computer, quando non è quello lo smartphone, quando non è quello sono le commissioni da fare. Oggi, anzi, non me la sono sentita e non sono nemmeno uscito, proprio oggi non è giugana, sono con le... mi cascano le braccia e non solo. Evidentemente nel piano Marco, se viva, cosa ti volevo dire? Voi, siamo passato anche in banda laterale poco fa, tutto quello, ma l'angolo veramente non c'è nulla. Natali, non capisco niente, si sente più Concetta che tu. Non sta parlando Concetta, il, il televisore ammazza la Concetta, che se no... Metto un microfono che non si sente. No, nel senso che se tu usassi quello normale, cioè becca quello lì, da lì a 20 cm senti e poi non senti altro, capito? Il bello del mic normale è quello che non prende il rumore di fondo, e lì nei tanti, tra un po' la voce della consorte, la televisione, magari il cane che abbaia. E ho capito. A due ce l'ho, mi ce l'ho a due. Sì, ma quello sì, magari anche se a due, è come se avesse una sensibilità ambientale. Sì, ti abbassa anche il rumore di fondo, però si sente un po' la TV. Va bene. Io ho capito, adesso vedo di procurare il microfono normale, ci metto quello, cosa vuoi ti dica? Con questa qui non si può, non si può, ci mette in mezzo ai coglioni. Occhio al caffè che te lo avvelena, trattala bene. E per quello che l'ho vista con una busta c'è scritto veleno per tutti. No, quello lascia tracce, quello non va bene, ci vuole la ricina, quella non lascia tracce. È come avere un'influenza. E tanto influenzato sono, sono con una ghida diarrea. Quella non è influenza, magari ti ha già avvelenato con la ricina. Sì, perché mi sento strano, non è che mi abbia messo qualcosa nel caffè questa, per quello già faccio assaggiare a lì prima, adesso. Allora, quando bevete il caffè, nel momento in cui si gira, scambia le tazzine, la tua la metti a lei e la sua la prendi tu. Altrimenti ci vuole l'assaggiatore lì, tipo re a corte, chiama l'assaggiatore per vedere se la roba era avvelenata o no. Ma manco a corso posso fare assaggiare, perché non gli piace né il vino né il caffè. Come gli metto la tazzina o il bicchiere del vino, ma e se ne va. Eia. Va bene, detto ciò io torno al mio da fare, qui rimane acceso se sento qualcuno. Guarda, forse avevo sentito Emanuele che chiamava a una certa ora, però io ero alle prese con i PC, con lo smartphone, col computer, capito? Non potevo mollare. Io capisco. Vabbè dai, torna al tuo da fare, io già sono qui se vuoi entrare. Ciao, per adesso, ciao, buona serata, ciao. Ciao, buona continuazione. Aspetta, ci sei ancora? Sì, sono qui. Allora, chiedo a te che sei un genio dell'informatica. Allora, quando tu formati una chiavetta, no? Una micro SD, anziché fare la formattazione veloce, che cancella solo i file, credo, adesso non mi ricordo, io ho fatto la formattazione lenta, ma risulta molto lenta. Cosa fa di diverso rispetto a quella veloce? Cosa adesso ti cancella tipo il TOC, come si dice, l'indice dei file, tablet, no, com'era, TOC, tablet of content of file, quella roba lì, niente ne sai. Tutto, la P alla zero. Tabula rasa, così è. No, perché sai, non sia che lo smartphone trovi vecchie, che ne so, indici dei file vecchi, si casini, perché sai, io sto formattando, praticamente era una chiavetta che usavo con Windows e GoPro e Windows e la stavo mettendo su Android, capito? Quindi ho preferito fare quella lunga, in modo che mi dia una piallata a zero, ecco, e poi gli metto i file suoi, gli originali che c'erano nell'altra, che per fortuna sono riuscito a copiare, e poi vediamo se funziona del tutto. K è una Samsung Evo, questa nuova che sto mettendo, 32 giga. Dovrebbe essere una di quelle buone. per quanto Natalì io preferisca SanDisk, io su tutto, su Dashcam, GoPro dei poveri, che ne so, telecamera di sicurezza, tutte quelle cavolate lì, ho sempre solo usato SanDisk e di quelle veloci pure. Vabbè dai, io adesso mi cerco il microfono normale e così gli metto quello. E io a dopo, ciao ciao ciao. Ciao ciao. Marco? Marco? Marcolino, ci sei? Eccolo. Guarda, adesso sono col microfono normale. E io. Premi la portante muta a vedere. Bene va. Ma la TV è accesa? Sì. Ah, che bello, non si sente nient'altro, solo la tua voce. Ok, dai, mi uso questo microfono. E blu. Ehi, aspetta. Sì, sai cos'è? Allora, quello magari lo puoi usare quando sei solo, puoi usare quello da tavolo. Cioè che sei magari la TV spenta, che magari concetta un telefono, eccetera. Invece quando c'è un po' di rumore lì ambiente è meglio usare il Mac normale, perché si è tolto un abuluto, un abuluto. Marco, sai cos'è? Per non tenerlo in mano questo qui era, perché anche piccolino mi viene male a pigliarlo. Ma quello è il 5.5, eh? Ehi! Eh sì, in effetti è piccolo il mic. È un po' ovile come dimensione, dai, com'è. Chi è che chiamava? Luca? Oh, Marco. Emmo. No, ti volevo dire, stavo vi parlando delle micro SD, no, quelle robe lì. Io qua, per esempio, nella radio c'ho la Trascende, si chiama, sono ottime, da 32 giga questo. Eia, sì, le conosco. Tutte marche, io per esempio non compro mai quelle cinesatte marca Hong Qui, per carità, no, quelle marche che balorde che hanno loro, io prendo sempre, che ne so, Transcend, allora prima di tutto SanDisk, per cose video HD, Full HD, 4K non ne ho. Oppure stavo prendendo queste Samsung Evo SS Micro SD, ogni tanto Transcend, cioè marche note, capito? E possibilmente non comprate da siti ambigui, possibilmente o in negozio al limite da Amazon, però vendute da Amazon, non da quei venditori in Cina, perché se vedi venduto da, cioè spedito da Amazon e venduto dal venditore che poi risulta cinese, allora è un po' l'onfia, perché ci sono stati casi di schede fasulle piratate, cioè piratano anche le micro SD, cioè vabbè. Sì, è vero, ma no, anche le scandisco sono buone. Eia. Sì, adesso sembra vuota la. Però mi viene il dubbio, l'ho formattata con Windows e ci sono sempre quei 234 kilobyte. E cosa potrebbero essere? Potrebbero essere la. Sempre anche se vuota la tabella dei cosi, vabbè, adesso faccio la prova, non è un problema, cioè pazienza, casomai tanto io quello che devo salvare del cellulare l'ho già salvato, foto di famiglia, documenti, roba del genere, sono già in salvo, salvati su hard disk, quindi anche se dovesse bruciarmi, diciamo, quelli che c'erano sulla scheda, pazienza, non c'è problema, ho già fatto il backup, in poche parole, dai, vai Natalino è morto. Sì, vabbè, no, vabbè, io intanto questo della radio serve per quando ci sono gli aggiornamenti e se devi fare delle registrazioni audio, sia tue che di chi stai ricevendo, e le registra gli audio, capito? Via. Adesso mi era venuto solo il dubbio che formattando c'era predefinita 64 kilobyte di, non so, dimensione file di allocazione, e non so se Android li usi diversi. Nel caso l'ho formato con Android e tutto lì, non cambia nulla. L'ho preformato prima direttamente ad Android, cosa che avrei dovuto già fare, ma ero curioso di vedere cosa riusciva. Dai, sto facendo prove di ogni tipo. Bene. Ogni stiracchiamento. Ciu ciu. Vabbè, Natale, è arrivato questo amico. E dice che sta arrivando, mi ha telefonato. devo fare delle saldature. Oh Luca, questo amico, ho capito, sta arrivando con dei potenziometri da far saldare. Capito, i potenziometri usa che sono illegali. Quindi pensa il 3009 omologato, quanti potenziometri c'hanno, figurati quanto era illegale, secondo Luca Budelli. Per carità, vabbè, lasciamo perdere. Va bene, torno al lavoro, a dopo, ciao. Via, ciao ciao. Ehi, sono qua, dimmi. Buonasera, sono in campagna. Sì, sono venuto da solo, non ho trovato nessuno. Sì, intanto io ho piazzato l'antenna per provare, poi la proviamo. Ehi, ti aspetti, ti stacco e poi ce la faccio sentire. Ciucu ciu. E infatti, cambio basso. Una, una, una, una, una, una, una. Hola, attenzione, canale 10, cambio. Attento collega, se ascolti l'isola della Sardegna Italia, cambio. Attenzione binario 45. Attenzione binario di Sassari. Vabbè. Ciao fra, ebbè, sto bene? Sto scendendo in campagna, ho messo l'antenna, tu vediamo se c'è qualcuno. Fate il controllo stazionario però, eh. E non l'hai messa sul tetto? No, in macchina sono. Ah, no, pensavo che l'avessi messa nella casa di tui. Ti stavo dicendo fra, no, sta arrivando bene. Aspetta, non mi ricordo, mi si controlla il stazionario qua. Ma quanto c'è sotto? 9.30 asino. Aspetta, non mi ricordo, mi si controlla. Segnale 9.30, quanto stai usando di watt? Squiscio. Dai. Che antenna stai usando la Turo 201? No, no, niente, qua aspetta, devo controllare il stazionario. E io, fai. Qua sono. Siamo alla buona, dai. Ok, una ventina di watt mi saranno. Sta arrivando benissimo, fra, sei 9.30. Che antenna stai usando? Quella che mi ha dato Eugenio. È la Turbo 2001. Poco mi si dice, è come avere un amato, vai in macchina, quello. Aspetta, faccio giro la macchina e passo l'altro guida. Le stazionali da cosa dipendevano? Le regolate? Le ripeti che non ti ho capito. Ho detto, le stazionarie le regolate? Sì, sì, no, ho solo controllato adesso, perché c'è anche il raccordatore sotto il sedile, quindi non siamo su niente, dai. Dai. No, sta arrivando benissimo, fra, anche la radio. Cosa stai usando di radio, di macchina? La radio è di Super Galaxy, è uguale a Samurai, però c'ha, invece che 10, questa c'è con 20 watt, esatto, in AM. E microfono? Quello da 9,90. Va benissimo, di lusso, di lusso. C'è un po' di eco, sì, ci dovrebbe essere un po' di eco. Sì, appena. Posso aumentarlo, no? Va bene così. Io l'avrei lasciato così, provo a aumentarlo, ma io l'avrei lasciato così. Guarda, prova 1, 2, 3, prova. E così diventa già un po' più forte, però già un po' ripetitivo. Guarda un po' così, era prima. 1, 2, 3, prova, va bene. Così di lusso, lascialo così, fra. Questa radio come va? Mi senti bene? Sento un po' di alternata, non so se dipende da me o da te. No, dipende dal microfono, se lo appoggi sulla gamba non te la fa, come vedi. Se invece lo metti a fianco all'apparato ti fa l'alternata. Infatti è così. Ma che ti ha dato? Paoletto Falcone al microfono, è abituato a fregarlo la gamba. Cosa ne so, anche se lo metto sul letto non ne fa. E Mandroni, cosa vuoi ti dica? Adesso sono in movimento, quindi tra un po' vedrai un po' di QSB. Io già lo vedo. Sei sceso a 9.15. Sono in mezzo ai palazzi, dai, già. c'è 9.15, 9.20, 9.25. Conta che l'antenna io lo sarò nella ruota di scorta e non è sul tetto, anche okay? Okay. Insomma non trovo mai la posizione reale io. Vabbè, però arrivi bene lo stesso, non c'entra nulla, deve essere gli ha fatto una buona massa. Bello, ragazzi, la scorta è abbonata diciamo al portellone di dietro. Quello è la mia, ciao, aspetta che vuole entrare Natalino, che è entrato in prepotenza, avanti Natalino. Ma da qui li brucio le orecchie a Natalino io. Natali, perché sono qui vicino a casa sua, là. Adesso mi sto allontanando però. Oh, Franco! Hai la coppi? Eia! Ero vicino alle parti tue, là, al semaforo. Cappa, come sto uscendo con questo microfono che è quello suo originale? Ah, già va bene, dai, niente di speciale, però va bene per chiacchierare, va bene. Perché l'altro è troppo fracassone, anche se lo metto basso, amplifica troppo. Guarda, poco fa ti ho sentito facendo DX sui canali alti, non si comprendeva nulla, si sentiva la televisione e basta. Ma tu perché c'eri lì? Ero lì, era acceso su quella frequenza lì, sei entrato a fare una chiamata, ma si sentiva più la televisione di tutto il resto. Perché mi stavo regolando il microfono, perché è un microfono un po' particolare e me lo stavo regolando, non è che mi interessasse più di tanto. No, troppo alto Natalino, troppo alto, devo usarlo basso, sennò ti porti appresso troppa roba che non va bene. Gianni, ci sei? Gianni che è tu? Mi sto già abbassando? No, io ti sento bene, Gianni è che non risponde. Sarà impegnato in altre conversazioni. E avrà qualcosa per le mani, evidentemente. Aspetta, mi stava chiamando al telefono. Gianni, doppio room, mi senti, rimortasci tua. Ci avrà qualcosa per le mani, ci avrà qualcuna per le mani. Qualcosina ci avrà Marco per le mani. Di quelle niente, sono lì. Gianni il caldo. Ciao Marco lì. Oh, ciao Fra. Aspetta che abbasso lo squelcio, ma sei in trasferta? Che ero nell'altra camera, credo ci fosse Natalino solo. Sono in barra mobile, perché nella mia campagna. E io sono poi piccolo, ci avrò 2 watt seppure, 2-3, una cosa del genere. Ti ascolto, dai. No, anche io ti ascolto, dai, non vedo segnale male, ma dalla radio credo che sia un buon segnale anche, che non lo vedo da questa posizione. Tu mi accoppi bene? Bene, bene. Non ho smitter qua, questo è l'unico che ho senza smitter e mi trovo un po' male, però funziona come baracchino. E di quelli che puoi lasciare in macchina e se te lo rubano pazienza. Sto usando anche un po' di eco, si sente, non mi sento bene, la verità, molto bene. Da, meno male, da. Vabbè, sarei ancora vicino a Sassari, grosso modo la zona. Sto scendendo per San Giorgio. E io, vabbè, è troppo vicino, dai. Va bene. Natalia, io sto facendo fare tutto, già buco e lungo, quando devi trasferire file sulla micro SD, cioè per i file grandi è molto ma molto veloce, ma quando ci sono i file piccoli va piano piano, è uno stilicidio. E poi l'hai formattata a manetta, l'hai formattata quella lì, è meglio così, fai piano piano, quando finisce ce la provi. Bene, sto uscendo col microfono normale. Sì, naturalmente la timbrica è un po' tipica di quei microfoni, dai, un pochino proprio cibo da mensa, però almeno non hai quel casino di fondo, perché prima era eccessivo. Già lo so che è troppo, quando è troppo è troppo. Qualche giorno io in banda laterale ci facciamo una roba di X che ti faccio vedere quello che combino. A caso mi ci mettiamo d'accordo prima, facciamo anche la gara, facciamo. No, però vabbè, devo mettere gli stessi tuoi watt, stesso apparato anche facciamo. Non sono uguali i watt dell'apparato mio e i watt dell'apparato tuo. No, la tentazione mia era attaccare lineare, però le prove si fanno a parità di watt, vabbè. Franco, li prendi? Capo, ma la lì, la tua antenna è un po' sorda. Come l'hai vista la mia antenna? Piegata, tutta a un lato. E evidentemente c'era vento. Cosa ha detto che non era incomprensibile adesso, Marco? No, ha detto strano che fosse piegata, ma piegata solo momentaneamente, non è già tutto a posto, sì. Penso di sì, stazionaria non ne ho. Infatti. Sì, gli dai uno sguardo per avere la terra, perché era molto piegata. Natalia ha detto di dare uno sguardo personale all'antenna, perché lui l'ha vista molto piegata. E adesso scendo e guardo, va. Capa, io per ieri vento non ce n'era qui, sembra strano. La vendetta del vicino. E non per un caso. All'altro. Ciao Marco Conno. Già, anche tu ci sei. Io ero dall'altra parte dell'appartamento, credevo, avevo sentito solo Natalino mentre venivo qua e poi ho chiamato. Capito Natalino, controlla che non ci siano vendette trasversali. Sì, ma sono. Ci sono, vi rispondo, ma sono su WhatsApp molto impegnato. Tu stai acciuppando. Ma acciuppando no, ma chattando sì. Trattative, come che si dice? Politica. Ok. Ti conosciamo bene, vedi? Che ragazzi. Tra un po' vi perdo magari. A Gianni forse no, se no. E dove sei perché fa? In quel caso dove c'è più, ma un po' prima dei miei. 9-5 sei qua, cosa mi perdi? 9-5. No, tu arrivi più forte, ma gli altri li sto perdendo. Natalino e Marco erano un po' più bassi. Ma ti arrivo forte io. No, più forte è Gianni, guarda. Sì, io praticamente sto in praticamente 3 watt, più il filtro, più il cavo, e quindi ci avrò un watt in antenna, 1,5 se mi va bene. Solita storia, ciao Giulio. Ciao a tutti, continuate. Sono a buon ascolto, sono Rodrigo. Stavo riconoscendo, scusami. Con questo voce, non è combinato. Gola. Prendi un po' di miele, dai, un po' di miele con limone caldo e dai che ti faccio tutto. Un abbraccio, ti farò un po' scendo. Ciao Giulio. L'hai ricevuto quel messaggio su WhatsApp già? No, non l'ho guardato oggi. Forse ti ho mandato un qualcosa relativo al 140. Natalino è andato a vedere. Io appena da Paramonte, dai, ci sentiamo più tardi, mi senti? No, continuate voi, non ho ancora ascolto. Scusami, perché io sto chiudere, ma lo sapete, il studio Gianni. Oh, giù, non me lo apre, sì, a te ti ascolto, Fra. Franco, ciao, se mi copi. Sì, che apre già, abbassa un po' e vedrai che apre. Franco. Dimmi Marco. Eia, sì, ti ascolto ancora, dai, un saluto, buon tutto, ci sentiamo. Capa, al limite c'è, però i tiranti dell'antenna me ne ha tolto quello di sopra. Sì, quelle tipo di... No. Ciao ragazzi. Inteso hai già. Certo, ogni tanto viene uno. Adesso lo crepo, come viene qua? Lo crepo. Sono andato già alla tabacchina per sapere che era lì e era ammazzava colpi. Adesso vado in questura e lo denuncio. Allora lo sto arrestando. No, io l'ho detto, penso, l'ho detto scherzando, qualche vendetta trasversale, no? E invece l'ha fatto davvero, allora fai così, chiama il carabiniere o forte ricoso e digli che ti ha messo l'antenna in, come si dice, in pericolo, come dire, se togli i tiranti c'è pericolo teorico di caduta, capito? Me l'aspetta, c'è esso, allucina, mamma mia, l'incazzo, hai capito già? Sì. Io l'avevo acquistato il virus. No, lì c'è da chiamare forze dell'ordine e farli prendere atto, spiegargli l'antefatto, spiegargli il tipo praticamente ha tolto il tirante mettendo l'antenna in coso di pericolosità, come dire, cioè se viene vento può anche cadere. A parte che l'hanno già chiamato in questura, capito? Quindi adesso gli fanno ano e contro ano, se continua. Marco, io credevo di avere avvicinato un po' così così, ma Natalino, Cristo, Natalino non rispondemi, mamma mia, incazzarito devo essere. Vabbè, dai, bianco per me, vuole vedere la situazione PC. Buona accettata già, Natalino, pigliate il malo, cioè, stai tranquillo e stai calmo però. Che tanto facendo casino non si risolve niente, bisogna fare le cose per vie legali e con molta calma. Gianni, aspetta, vai. No, non apre, non c'è la cosa verde per aprirlo, è tutto grigio, capito, non apre. Ma guarda che in alto c'è una G, schiaccia sulla G, sull'intestazione proprio, in alto, abbassa il messaggio e c'è una G, come Google, e schiaccia lì, vedrai che si apre. Ma già lo so, giù, solo che ho provato e non fa. Se l'apro io qua, guarda che te l'ho rimandato Gianni, te l'ho rimandato, prova adesso. Sì, adesso l'ho aperto, come l'hai rimandato? Sì, sì, sfila le pagine, c'è un po' di tutto, dai. Vabbè. Grazie Giulio. Niente, figurati. Giulio. Sì, dimmi. Sentita la storia, che quel farabutto che abita sopra Natalino gli ha tagliato i tiranti dell'antenna, mettendo una situazione di pericolo, capito? È allucinante la storia, boh. Ma se quello, lui stesso ha detto, Natalino ha detto che con lui è un ammazzo di galera, dunque cosa ti vuoi aspettare da un elemento del genere? Comunque è che adesso chiamo Natalino, siccome Natalino se la prende a cuore, gli fa male al cuore, al fegato, alla salute, di non incavolarsi inutilmente, fare le cose piano, con calma, e chiamare anche così e fare prendere atto che questo ha manomesso l'impianto, l'antenna, mettendolo in una situazione di pericolo, capito? Siccome in questura il signore l'hanno già convocato pochi giorni prima, ma non gli è bastata, vuole proprio finire male. Lo dovrebbe denunciare adesso, così almeno sarà una volta per tutte, lo metteranno a posto. Io, però non, come dico io, non abbaiare al vento, quando c'è da fare la denuncia si fa, non che si dice poi per il quieto vivere, si incassa e poi non si fa, si fa perché potrebbe fare anche cose peggiori. Vabbè. Dai Giulio, sentiamo. Beh, comunque Giulio, questo è giusto perché ho guardato, il mio è aperto anche per l'AM, quindi è a posto. E come l'ho pagato io? Sì, no, non ti sto dicendo niente io. Era solo per documentare, per avere tutto presente al 100% su tutto, hai capito? Non per altro. Poi tutto quello che sai, lo so che tu lo sai, no, non c'è problema. Sì, ma già c'ho istruzioni io, c'ho anche le istruzioni a casa, mi hanno dato anche quelle con le, diciamo, con tutto il pacco, c'erano anche le istruzioni. Ok, hai visto, è uscito nel 1987, è stato messo in vendita, giapponese. Cala gara. Va bene, avanti Marco. Io sì, stavo facendo una cosa qua di meccanica, adesso riassetto, rimetto a posto la baronda che ho fatto, dai. No, mi sta venendo l'ansia a me a sentire quelle cose lì di Natalino. Ho detto, credo di avere vicinato brutto io, così, cioè un vicinato non un granché, ma Cristo lì è allucinante. Vabbè, sto parlando da solo, ok, bianco per me. No, non sto parlando da solo, non devi lasciarmi credo. Vabbè, io non è che posso parlare molto. Vabbè, dai, chiudo anch'io, dai, è inutile andare avanti, Marco. No Giulio, no, è che Gianni chatta e parla al baracchino, ti rilancia, dice una cosa, poi non risponde perché sta chattando, o chatta o parla al baracchino, vabbè, ok dai, così mi termino queste cosette. A dopo, ciao Giulio, Gianni, Natalino, magari se posso lo chiamo, o a domani, che tanto mi sta facendo tardi, direttamente a domani. Ciao, ciao a tutti, ciao, Luca Flipper anche che era l'ascolto, ciao. Ok, ciao, ciao Marco, vabbè dai, no, non posso parlare, gola, gola. Gola, ci sentiamo dai, caramella menta. Mica sei permaloso, mi ho toccato l'up down senza volerlo, che metto di frequenza, capito? E non ti ti potevo rispondere per quello, Marco. Oh, vabbè, no, per modo se lo sai che io non è che mi coso, però ho detto va, non risponde, vuol dire che è impegnato in altro. Bene, mamma mia, no, adesso mi sale la pressione a Natale, adesso lo chiamo. E chiama, vedi che c'è Fendi, mi vuoi cazzare. Ehi, appunto, che non sbarelli, perché uno sai, incassa, poi arriva il giorno che sbotta e magari fa danno. Ho capito. Ma sempre una lotta in quel posto, ragazzi. Se nella durata di campagna ci avessi stato più tranquilli. Sì, ma guarda che è il colmo, cioè questo prendeva disturbi con la sua antenna, lui gli ha permesso di attaccarci la sua antenna, all'antenna di Natalino per vedere bene la TV, veniva disturbato lo stesso perché ci avrà qualche televisore, qualche decoder dei cinesi e gli stava continuando a rompere le balle. Natalino si è buriato e ha detto, beh ascolta, allora per non vederne, ha staccato la parte di questo, la derivazione di questo tipo dalla sua antenna e gli ha detto attaccati alla tua di nuovo di antenna, tanto per non vederne prima, non vederne dopo, per i presunti disturbi. E allora questo si è vendicato con i tiranti, capito? Caridai. Ma Franco c'è ancora? Franco ci sei? Cazzo di salutarmi che stava chiudendo. Ah ecco, dai, va bene. No, perché se non l'avessi visto a Franco lui lo sarebbe manco accorto. Ehi, Franco l'ha vista ieri piegata, lì c'è un bel piegata, e ieri il vento non ce n'era, allora Natalino è uscito, ha visto cesso. Ha piegato il tubo. No, le ha tagliato i tiranti, ci sono i tiranti, capito? L'antenna. E le ha tagliati. Ma se le ha tagliato il tirante, probabilmente sarà piegato il tubo, che lo sa. Beh, se non era di quei tubi belli forti, di quelli di acqua, se no non si sarebbe piegato. Guarda quello che c'è sulla BDV al chilometro, quello lì è sempre dritto, con tutti i venti che fanno, senza tiranti, senza nulla. Lo so, io non ne ho mai usato, sempre quello, in 50 anni e oltre non ne ho mai usato io tiranti, ho sempre utilizzato un tubo abbastanza resistente e è andato sempre bene. Vabbè, tu sei già in una zona più riparata, dai, a me mi batte proprio il maestrale, allucinante. Quando batte il maestrale c'era la Game Master che si piegava quasi in due, per forza me la droncata, batte un bel forte lì il vento. Invece l'altra non la fa muovere quasi nulla. No, già, no, non è come pensi tu, perché qua non ci sono case più alte della mia, sono tutte alla stessa altezza, ed è tutto libero. Perché è vero, io da dove mi giro vedo sempre, o vedo terra o vedo mare, per cui no, non ci sono parti che vengono riparate dal vento, assolutamente. Sì, più in basso, d'accordo, però è come stare al mare, guarda, te lo posso garantire, perché anche qua la frusta si piega proprio, addirittura squadra si mette, però no, non è successo niente. Vabbè, comunque, va bene lo stesso. E poi con i tempi che stanno facendo, questi venti strani, affolate, vengono, e quelle proprio quelle folate che ti fanno spezzare le antenne. Avanti, Marco. Sì, stavo pensando, sì, se togli i tiranti l'antenna non dovrebbe risentirne, dovrebbe stare già da sola, bella dritta sul palo, a meno che questo delinquente non abbia tirato con qualche fune e gli abbia storto proprio l'antenna dal basamento del palo lì, dove si congiunge col palo. Fuori di gabbo. Quello è un casalzino, non ci può attaccare con un liscio, capito? Lo arrestano subito, se vanno i carabinieri lo arrestano subito, perché non è possibile che uno si possa permettere di toccare la roba degli altri così. Ma quello è abituato, quello voi che pensi a queste cose, quello è abituato, se è delinquente basta, abbiamo detto tutto. Vabbè, infatti. Non gli costa nulla, già c'è stato 50 volte in galera, ci può stare una volta in più, però avendo tutti questi reati che ha fatto è capace che ci vuole dentro. Gira gira sta meglio dentro, mi capito? Tutto pagato, magari c'è pure la TV in camera. No, hai capito, quello lì è abituato a vivere in quel modo. L'altro giorno Natalino è dovuto uscire da casa perché si stava allagando tutto quanto, è stato attaccato un tubo esterno, gli ha fatto la giuntura, perdeva l'acqua e stava allagando tutto quanto. Ciao Tony. Ciao Gianni. E chi c'è altro? C'è Giulio, io, Marco, Natalino incazzato nero perché gli hanno tagliato i radiali, ma i tiranti dell'antenna. Capita. Ciao Giulio, ciao Natalino e chi altro c'è in ascolto? Sì, Natalino invece che lo visia, si è andato dritto dritto, è andato a cercarlo a quello lì ma non l'ha trovato. Adesso sta andando ai carabinieri a denunciarlo. Ma chi è quello che mette sopra lui? Eia. Capita. E le facciate il radiale, adesso c'è la stazionaria. Cosa, Tony? Avrà stazionaria. No, non l'ha detto, non se n'era manca il conto. Avrà le stazionarie adesso? No, i tiranti, non i radiali. Ah, i tiranti. No, è la Game Master, come quella che avevo io. Ho capito, aspettiamo sotto qua. Perché intaga? Ma come, non facevo più il TV, hai? Mi ha attaccato l'antenna sua e poi va, faccio un altro bucare di tiranti. No, ma tu non sei l'antefatto. E cioè, ciao Marco. Ancora. Questo gli rompeva le balle in continuazione perché con la sua antenna vedeva male la TV e Natalino gli ha concesso di allacciarsi alla sua antenna. Però il TVI non è passato, questo sì, la vedeva bene, però poi con Natalino parlava e allora lì il problema deve essere proprio dell'apparato che riceve, proprio il ricevitore del decoder. Gli ha rotto le balle, a tal punto che Natalino ha detto, beh ascolta, tanto rompere le balle per rompere le balle, adesso ti stacco dalla mia antenna e ti arrangi, ti rilancia la tua se proprio vuoi vedere la TV. Perché gli condivide una cosa e si lamenta, e il problema non sono le emissioni di Natalino. Allora questo pochi giorni dopo si è vendicato. Ma non solo, i tiranti li ha tagliati, però l'antenna è fortemente piegata, è come che avesse tirato con una cimami, ha tirato un tirante, non so cosa cacchio ha combinato. E quindi è anche pericolosa pure. Non so, io se in condizione che ho l'antenna, insomma, il palo mi sembra sia alto 10-12 metri, non so, enorme. E quindi non so come era composto quei tiranti. Naturalmente lui, anziché essere impulsivo come fa sempre, deve chiamare i carabinieri e dire il danno che gli ha fatto e che ha messo l'antenna in una situazione di pericolo. Poi a lui già se lo cucinano, loro. Giulio, sì, non c'è Giulio, Gianni. Io avrei fatto casino, avrei chiamato i vigili del fuoco per farmi fare un verbale di pericolo dell'antenna e poi i carabinieri, così almeno avrebbe fatto casino di avere buttato dentro. Io sarei stato più educato, sarei salito su e l'avrei buttato giù dalla finestra. Chi vorrebbe? Potreste che nessuno veda, poi gli incidenti capitano. E infatti l'incidente capita, io sarei salito sopra, l'avrei buttato alla finestra e inciampato, è caduto. Peggio, avrei detto, mentre manovrevo i tiranti dell'antenna si è sporto ed è caduto dalla finestra. L'ha fatto tipo elastico. Tipo bungee jumping, però i tiranti non sono elastici, quindi si è fatto aius. Ma lì ogni adivine è una, mamma mia. Ecco perché ti ho detto, è meglio abitare in campagna, mille miglia lontano da tutte le città e i centri abitati. Già sto bene io qua, tranquillo. L'ho pensata, non mi hanno detto questo qua vicino a me, dice, ma questo è stufa, se lo mette indietro, lì va bene. No, che altrimenti più distante. Ho fatto un basamento calcestruzzo, due quintali e mezzo, tubo affogato e ho salito al palo, tranquillo. E non rompo le scatole a nessuno. Eia. Bella rottura, no, sai così che temo? Che poi vigili del fuoco, se vedono davvero l'antenna pericolante, capace che la portino giù pure, e così non può più modulare. Sì, ma è così, loro mettono in sicurezza, ma stai scherzando. Marco, guarda, ti ho mandato la foto. Aspetta, il cellulare è spento senza scheda, senza sim, dopo la guarderò. Comunque Natali, ti volevo dire, non ti arrabbiare perché ti fa male al cuore e al fegato. Tu fai le cose come da legge. capito. E segnala lì la condizione di pericolosità adesso che t'ha messo, in cui ti ha messo l'antenna. Dice che ha fatto due denunce, perché dice che gli sbatte qualcosa, l'ha fatta apposta. Gli ha messo un palo per tenerla a forza proprio. Mandami la foto, Vateri. Come? Manda la foto a me. Oh, Tony, pensa che c'era Franco in giro in macchina, non è andato forse a lavoro, era lontano, e gliel'ha detto lui, dice, ma Natali, come mai l'antenna è storta? E dice, l'ho vista da ieri, cioè l'ho vista ieri ed era storta, molto. È uscito Natalino fuori e ha visto il capolavoro, non se n'era accorto lui, stazionario è uno sta uno. Sì, ma se è storta e non è in posizione pericolo, se chiami i pompieri per mettere in sicurezza, i pompieri te la tolgono. Poi diranno, va di lì, faccio la denuncia, quello che vuole, i pompieri fanno il loro dovere, capito? Perché il palo è molto alto, giustamente sei messo in situazione molto pericolosa, giustamente loro la staccano. Adesso non so se ha chiamato i pompieri, Natalia, cosa ha fatto. Ma quindi non è quello... No, quello dell'antenna non era quello di sopra, Marco, forse è l'altro. Ma cosa, che l'altro è Muccio, cosa cazzo l'altro? Quello di sopra tutti, quello che a me, me ne ha tolto il tirante e gli ha messo un palo per tenerla distanziata dal muro suo. Ti sto dicendo, il gatto, se ne va l'antenna, gatto, sta a casa sua, ne rifaccio la gliana e la mappa a coi. Sono a finestra, lo butto. Lo volevo buttare io sulla finestra. Oh, è allucinante, guarda che anni che fa avanti così questa storia, un po' l'uno, un po' l'altro, sì, ti vuoi. Boh, vabbè. Romy, non te la prendere, Natali, non te la prendere, la cosa che ti fa male alla salute. Fai quello che devi fare, fallo, se devi fare una denuncia domani mattina, falla. Perché adesso non si può andare avanti così. Adesso sarei andato, cosa domani? Anzi, li avrei chiamati i carabinieri, li avrei fatto il 112 e li avrei fatti venire lì sotto. No, ma credo che siano a orari le denunce, tipo dalle 9 alle 12. No, se vai adesso li disturbi, capito? No, al telefono direttamente, venite urgentemente, questo mi ha fatto questo lavoro, l'antenna è anche pericolosa, allora lui lo stesso chiama i pompieri e viene denunciato automaticamente. Ha ragione Gianni, chiamalo subito. Ma quello a saperlo, Natali li ha chiamati per prendere atto della situazione. Nulla, Natalino è alla finestra con la lupara, agitando che torni. E no, perché sai, ti rompo le balle un giorno, una settimana, un mese, un anno, tanti anni, poi uno sbotta, no? Meno male che non ci abitavo io lì. Ui, però guardate che mangio. Ehi, purudio, c'ha più duio, dico di muro. Secondo chi è? Poi tu sei stato operato, cosa vuoi fare? Secondo lo vedi dare il colpo, ti fanno male. Io c'ho un attrezzo, caro Gianni. Io faccio le frattaglie subito. Frattaglie, uia. Cosa c'è? Ma c'è là. Di più. Le frattaglie, il mio zimino. Se me la faccio con le mani, bene. Se vedo che non ce la faccio con le mani, uso l'attrezzo mio. Lì è gente che non vive, non lascia vivere, c'è poco da fare. Io in quella via avrei essere scappato, non adesso. Vado a gando, uia, me ne andando. A costo di stare in campagna a bisticciare con i miei fratelli, ma non me ne ha futti nulla. Gianni, io ci sono andato in quelle zone, quindi conosco vite e miracoli. Quindi, dai, amici. Io agito molto male che non vedo gli archivi. C'è gente che è molto ignorante, capito? Però già scappare non è la soluzione, perché tu puoi andare anche in cima, abitare in cima a una montagna, e poi ti trovi altri che hanno la stessa decisione e sei punto a capo. No, scappare no, però fargli cagare il sangue agli altri sì. Ha detto, oh, va bene, a me mi state avvelenando questa storia, allora cominciamo a mettere tutto a verbale. Cosa fa uno, cosa fa l'altro, cosa combina uno, e subito andare a fare casino. Marco, come dici tu, non si troverà mai la pace, sarà sempre una guerra. Uno fa il dispetto all'altro e non vivi più, no? E diventa invivibile una situazione così. È come l'America vuole sempre la guerra con l'Ucraina, che è contro la Russia. Anche l'Italia, anche altri paesi, diciamo, vogliono la guerra, non vogliono la pace. Sì, ma tanto mi guarda che anche tutti i condomini più o meno non ce n'è pace. Come anche lì c'avevi i rompiballe di turno già, ti ricordi? Quello che batteva il muro, quello che si sentiva disturbato dal baracchino, quell'altro così, quell'altro colà. Cioè, non esiste la pace, non esiste più. Io qua ancora sono tranquillo, adesso mi rompo le palle. Vedi, te l'ha detto Tonino, lui è in pace. Lui è in pace, solo se esce in guerra. A chi prego tutti. Ma c'è, sì, sta. Niente, io ho sistemato la questione quando avevo l'antenna qua dentro nel mio cortiletto. E il tipo qua a fianco, non voglio fare nome comunque, che è venuto a abitare qua, dice, no, a me l'antenna mi dà fastidio, a me quando mi dà fastidio non mi dà fatto un cazzo, scusando la frase, in faccia me la giunto. Sì, ma a me non piace che tu abiti qua, e neanche a me piace che tu abiti vicino a me, ci abitavo prima io, quindi. E mi fa, domani me la compro io l'appartamento dove sei tu, a quando compratelo tu, io non ci sono più. Comunque se mi fai favore la metti più distante, mi qua dietro al muretto, va bene, faccio questo e poi ti faccio altro. Gliel'ho fatto, ma mi ha più rotto le balle, e dopo mi vede e mi saluta. Ma sul serio ti ha fatto un discorso del genere? Caramba. Ma era una vecchia conoscenza o... E lui, la moglie è la padrona del terreno, lei la sorella e il fratello, capito? Lui si è sposato con questa qua che è padrona. Ah, così è, insomma. Oi, oi, qua urge un caffè decaffeinato naturalmente. E vediamo se il computer anche ha finito, che tutta la sera che sta macinando, mamma mia, già bogo longo, inutile, tipo prende anche un computer da 10 GHz, ma certe operazioni vanno piano, devono essere fatte piano piano, non c'è niente da fare, ci vuole il tempo suo, non è questione di GHz di potenza, già ne riprendi, bianco per me e vado a fare il caffè, ciao. Anche arriva, ecco per me che devo fare il caffè. Comunque, io sono dentro la porta di ferro. Non mi rompo le palle a nessuno, mi rispettano perché forse Gianni già lo sa, perché se io mi incazzo vado in qualche ufficio so cazzi detti. Ehi Tony, ma se uno si comporta bene lo rispettano, ma lì c'è ignoranza, c'è proprio ignoranza, lì c'è la legge del più forte sempre, quando uno è ignorante non vuole sentire dei discorsi, nulla, non li vuole comprendere. Sì, ma sicura, se gli suonava il televisore, gli ha fatto toccare l'antenna sua, non ti disturbo più, tutto tranquillo, allora gli ha alzato il cavo di pulsare il tubo. No, ma ultimamente tu non lo sai, Natalino gli ha staccato i fili dell'antenna, perché gli stava rompendo le balle lo stesso e gli ha staccato i fili dell'antenna dal suo attacco. E quindi è rimasto senza televisore. Ah, ecco perché allora gli ha alzato... Oh yeah, per carità. Quello che ti ho detto prima, Tony, cioè gli ha fatto il favore di mettersi, di attaccarsi all'antenna sua, che è nuova, presumo, quella è Natalino, e lui veniva disturbato lo stesso, ma a quel livello cosa può essere? Il decoder. Come ci sono baracchini che sono dei cessi che prendevano colpi da tutti, ci sono baracchini anche che non prendono colpi da nessuno. Secondo me anche nel decoder è questione di filtri, di qualità del ricevitore, o no? Ma se non si compra un ultimo televisore dell'ultima generazione, che c'ha il decoder incorporato, sono più seri e non prendono queste armoniche qua per mettere il baracchino. Quindi, forse lì ha un reddito di cittadinanza, o comunque se fame, non trovaglia, ovviamente non se lo occuperà. Comunque se Natalino gli ha fatto il favore, poi gli ha staccato l'antenna, Kindle le ha dato un video già a Udremindo. Oh Gianni, eia. Sì, vabbè. È una lotta senza fine quella lì, è una lotta senza fine. Io non sarei riuscito a vivere, perché io cerco sempre la pace, non mi piace stare a bisticciare, cosa, no, cerco sempre la pace. No, le scatole in terra di stare a lottare, non ne ho più voglia. Piccolino, dimmi, sono quello piccolino. Cosa? Capisci? No, aspetta, Natali, ricordati che quell'apparato come questo c'ha 0,3 secondi di ritardo da quando premi a quando trasmette. Quindi tu premi, mezzo secondo dopo puoi parlare, dai, per sicurezza. Oh, ma ogni annuncio che appuccio, adesso ho visto la foto. Ma lì che manca vero. Cioè, quindi lui si è anche esporto, diciamo, con il braccio in pericolo di cadere in giù, ma cosa ha fatto, gà? Ma no, me l'ha pulito. Azzetta, azzetta. Adesso te la mando già. te l'ho detto, poteva anche cadere, no? A non beccarlo al momento, dai lì un aiutino a... Ok, Johnny, quando... Sì, guarda, quando accendo il cellulare che sistemo le schede, sim e coso, me lo guardo. Ma a sentire Tonino deve essere proprio fatto una porcheria fatta. Adesso quello, la battuta mi stava dicendo, c'era da impiccarlo all'antenna, alla sotto l'antenna. Cioè, ma allora lui si è sporto verso la destra, ha messo questo puntale così in ferro, lì non lo so, verso l'antenna, ha fatto forza a piegarla e a puntarla contro il muro. E mi sembra capito, capo. Tony, mi ascolti? Papa, che ti ascolto. Ok. Sì, ti sento, ma sei in macchina o casa tua? Casa sono. Tu vuoi segnare più o meno come prima, prova a modulare da lì. Aspetta, ma lo fa mai. E comunque sei più basso il segnale, non è più basso. Perché prima quando io chiedevo l'RFGIN, praticamente mi arrivavi 7,45, allora mi arriva quasi a 0, quindi aperto 6,9,10, non è il segnale tuo. E quel Polmar ci avrà 2 watt e mezzo, manco 4 watt arriva. È strano perché quelle antenne lì sono dei dipuri e anche se le metti in terra vanno. Gianni, l'hai visto? Sì, l'ho visto. Ci ha messo un pezzo di tubo per, o legno, cosa sia, per allontanarla dal muro. Come si cacchia ha fatto? Boh. Mi so che è pericoloso quello che ha fatto, perché è andato verso la destra, si è sporto lui. E allora? È un disgraziato, per carità. Io non dovrei dirlo, ma ci vorrebbe una spedizione punitiva. Ma occhio, io sto guardando ingrandito, ma si è appoggiato al bullone che c'è praticamente questo cacchio di staffa che ha messo. Io non l'ho ingrandito, non lo so, bisogna che lo ingrandisca. Ho messo appoggiato, siccome non ti lascia il tubo telescopico.